Tra i mattoni delle cose, odore di pisce e sale, contrade nascondono volti, storie da raccontare. Chi sale sulla giostra del nostrano malaffare, chi si ostina ad ostentare e ha origini marinare. Infame in doppio petto, compra case in centro, al di fuori del sospetto, con un parco fa un parcheggio. Al cospetto dei quartieri tutto è diverso, l'infame presa a calci, dai tutto per tuo fratello. Tutti scazzano con tutti, Genova per vecchio stupi, rap contro i musi, per combattere soprusi, restiamo pochi illusi. Pietre contro gli scudi, nascondiamo i volti, narriamo diversi muri, esclusi a mente aperta e braccia contratte sulla sponda del fiume. Il cadavere arriva sempre, che si sbatte e sceglie, chi si lascia andare perde. Mad Boys, One Man, ti tocca scendere. Nuova flash, mezzo al buio, entro ste mura, con in mano un altro cuba. Troppo stress, ma qui il tempo lo cattura. Faccia scura, freddi stupi, scrolli il tronco e guardi i frutti, mentre ancora conto tutti quanti punti di sutura. La lanterna che si inclina sul disagio, lei non pare più superba, ma piuttosto vittima di sto naufragio. Ubriaca di poesia che chi ci vive sbocca in prosa, fra i fantasmi dei pirati, marinai, bocca di rosa. Scurreria, San Lorenzo che ti guarda e scappi via, ma ti trovi, sembra il punto di partenza e così sia. Nostalgia se sono lontano in piena notte, vedo il farò, il suo richiamo è San Lorenzo che mi guarda e non va via. Uffagia, otto un punto, notte in bianco, scendo al porto, il vento fischia con il mare che mi tocca e poi si eclissa. Il fantasma che scompare, la città torna normale, luce sia, la lanterna guarda, piange, non va via. Due facce della stessa medaglia nella città, io partendo a quella buia, quella nascosta fra, quella che non vede l'occhio aristocratico, invisibile in bilico, soffochi nel panico. Drastico il disagio, ma nessuno asciuga lacrime, conta solo su te stesso, rimboccati le maniche. Taniche di odio sulle sponde della costa, apri gli occhi, ti accorgi di una Genova nascosta. Zero cash nella periferia di questa città, zero back, solo tendenzo c'è, respiri i miei fra. Genova superba, porto su più erba, vita che ti snerva. Giro al buio sotto la luce della lanterna, questa merda io la vivo minuto dopo minuto. Se mi ferma lo sbirro, io sono sordo, cieco e muto, posseduto dalla rabbia che a chi cresce in una via. Non saluto mai l'infame, fra, è la mia filosofia. Carestia, un altro panca bestia che fa carità, e fra si rubano i clienti e la piazza, è così che va. Fra Don Seppia io vorrei vederlo morto, ditemi se ho torto, solo uno dei tanti è questo che mi crea sconforto. C'è chi importo su dai si rompe la schiena per due lire, c'è chi invece amarassi la notte non riesce a dormire. Sfogo le mie ire con in mano sta penna che scotta. Massimo, la città nascosta, è la matosta la mia strofa. C'è Felix, roba a scuola, me la meno perché non arriva, ma è una buona nuova. Vado a caccia su sta traccia, bomba e son fuori controllo. C'è chi è fuori per la bonza, chi c'è dentro fino al collo. Se non mollo non annego, spiego ciò che vedo, a volte non collego, ma davanti al mare sciallo sempre nego. Devo avere mille occhi per guardarmi intorno, troppi sbirri in borghese, in giro pure di giorno. Voglio togliermi di torno, andare via da sta città, voglio ma non posso e devo rimanere sempre qua. Vedi fra, per la mia città io butto giù una rima, sai che viverla non è come vederla in cartolina. Perdi i sentimenti, prendi e spendi i tuoi stipendi, stendi e poi ti penti, senti un po' ma quando ti riprendi. A denti stretti vado avanti anche se tutto mi fa schifo. Chi vuol fare l'eroe, per me è il primo che ha già fallito. Due facce della stessa medaglia nella città, io partendo a quella buia, quella nascosta fra, quella che non vede l'occhio aristocratico, invisibile in bilico, soffochi nel panico. Drastico il disagio ma nessuno asciuga lacrime, conta solo su te stesso, rimboccati le maniche. Taniche di odio sulle sponde della costa, apri gli occhi, ti accorgi di una Genova nascosta.